ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Il funerale. Nessun annuncio né invito ad assistere al funerale di Björn Hindriksson di Löby era arrivato a Jan Andersson di Skrolika. Proprio nulla. Ma naturalmente la famiglia del morto non poteva sapere con precisione se egli volesse o no tener conto della parentela, ora che era salita a una tale gloria ed onore quali quelli in cui ormai viveva. Probabilmente pensavano anche che non sarebbe stato facile predisporre questo e quello se un uomo della sua importanza fosse intervenuto al funerale. I parenti più prossimi di Björn Hindriksson avrebbero certamente voluto trovar posto nelle prime vetture del corteo funebre, mentre sarebbe spettato di diritto a lui, che era imperatore. Evidentemente non sapevano che Jan non era per niente pignolo in quel genere di cose per cui gli dava tanto peso. Era comunque quello che era, lui. Non gli era mai venuto in mente di mettersi davanti a quelli che ci tenevano ad avere i primi posti nei banchetti. Per non dar adito a risentimenti, preferì dunque non andar quella mattina alla fattoria del funerale prima che il corteo si mettesse in cammino, ma si trovò direttamente alla chiesa. E soltanto quando le campane suonarono e la lunga processione si ordinò sul sagrato, si fece avanti e prese posto tra gli altri parenti. Questi parvero in un primo momento un po' sorpresi al vederlo arrivare, ma ormai Jan era abituato che la gente si stupisse della sua degnazione. Era una cosa da accettare tranquillamente. Di certo avrebbero voluto metterlo in prima fila, ma non ce ne fu il tempo, perché il corteo si era già mosso verso il cimitero. Quando l'inumazione fu compiuta ed egli seguì gli ospiti in chiesa sedendosi allo stesso banco nella parte bassa, questi apparvero nuovamente un po' a disagio, ma non dissero nulla nel vedere che l'imperatore, per amor loro, aveva rinunciato al suo bel posto sulla tribuna. Non stava bene fare scuse proprio mentre si intonava il salmo d'ingresso. Alla fine del servizio divino, quando tutte le vetture del corteo avanzarono sul sagrato, si andò a sedersi sul grande carro che aveva trasportato la bara alla chiesa. Ora, quel carro doveva tornare a casa vuoto, lo sapeva. Di conseguenza non portava via il posto a nessuno. Il genero e la figlia di Björn Hindriksson passarono un paio di volte davanti a lui e lo guardarono. Erano probabilmente preoccupati di non poterlo invitare in una delle prime carrozze, ma Jan non voleva proprio che ci fossero cambiamenti per causa sua. Era comunque quello che era, lui. Durante il tragitto non poté fare a meno di pensare a quella volta in cui lui e la piccola Clara Gulla erano andati a trovare i ricchi parenti. Sì, era tutto ben diverso ora, davvero. Chi era adesso più potente e stimato? Chi era che faceva agli altri un onore rendendo loro visita? Man mano che gli ospiti giungevano alla fattoria del morto, venivano introdotti nella grande sala comune al pianerottolo, dove si toglievano i mantelli. Poi, dei vicini di Björn Hindriksson, incaricati di fare gli onori di casa, venivano ad invitare gli ospiti più insigni a salire al piano superiore, dove era apparecchiata la tavola da pranzo. Era un compito delicato scegliere quelli che dovevano salire, perché in un funerale così importante non era possibile aver posto per tutti gli ospiti in una volta sola. E molti avrebbero considerato un'imperdonabile offesa non essere invitati al primo turno, un'offesa di quelle che non si dimenticano mai. In particolare, colui che era stato elevato al rango di imperatore poteva anche essere compiacente in molte cose, ma per quel che riguardava il far parte della prima tavolata era costretto ad esigerlo. Altrimenti la gente poteva pensare che egli non si rendesse conto di avere il diritto di passare davanti a tutti gli altri. Ma ovviamente non correva nessun rischio, benché non venisse invitato tra i primissimi a salire al piano superiore. Era talmente evidente che il suo posto era insieme al pastore e alle personalità che neanche doveva starsi a preoccupare. Sedeva solitario e silenzioso su una panca, perché apparentemente qui non c'era nessuno che volesse farsi avanti e conversare dell'imperatrice. Bisogna riconoscere che si sentiva un po' scoraggiato. Quando era uscito di casa, Katrina gli aveva detto che a quel funerale non doveva andare perché la gente della fattoria era di così alto lignaggio da non avere soggezione né di re né di imperatori. c'era da credere che avesse ragione. Quei vecchi contadini che avevano abitato nella stessa fattoria da che mondo è mondo si ritenevano superiori a tutte le altre maestà. Non procedeva tanto in fretta la scelta di quelli che dovevano partecipare alla rivolta alla. I due che facevano gli onori di casa continuavano a girare cercando le persone più insigni, ma a lui non si avvicinarono. Accanto a Jan erano sedute due zitelle che non avevano la minima speranza di essere chiamate subito, e chiacchieravano tranquillamente. Che fortuna, dicevano, che Linnart Björnsson, figlio di Björn Hindriksson, fosse arrivata a casa in tempo per riconciliarsi col padre. Non che ci fosse una vera inimicizia tra loro, ma era accaduto che una trentina d'anni prima, quando Linnart aveva poco più di 20 anni e intendeva sposarsi, aveva chiesto al vecchio se voleva affidare a lui la fattoria, o se poteva disporre in altro modo affinché lui, Linnart, diventasse indipendente. Ma il vecchio Björn aveva rifiutato l'uno e l'altro. Il suo desiderio era che il figlio rimanesse lì a casa, come prima, e prendesse in mano la fattoria quando egli avesse reclinato il capo in pace. «No», pare gli avesse detto allora il figlio, «non voglio restare a casa e servire sotto di voi, anche se siete mio padre. Preferisco andarmene nel mondo e far fortuna per conto mio, perché devo essere vostro pari, altrimenti l'amicizia tra noi finirà presto». «Può finire lo stesso se vuoi andartene per la tua strada», aveva risposto Björn Hindriksson. Allora il figlio era partito per le grandi foreste a nord e a est del lago Augusto, e si è abitato nel bel mezzo di quella regione deserta, dissodando terreni e creandosi una sua fattoria. La sua casa si trovava nel comune di Bro, e a sbarzo non era più comparso. Era 30 anni che i genitori non lo vedevano, ma 8 giorni prima era capitata a casa, proprio quando il vecchio Björn era agli estremi. Hjandis Kroerika ne fu davvero felice. Queste sì che erano buone notizie. La domenica precedente, quando Katrina, tornando dalla chiesa, aveva annunciato che presto sarebbe stata la fine per Björn Hindriksson, Jan si era subito informato del figlio e aveva chiesto se era stato mandato a chiamare. No, non lo era. Katrina aveva sentito dire che la moglie di Björn Hindriksson aveva pregato e supplicato di poterlo far avvertire, ma le era stato severamente proibito. Il vecchio aveva dichiarato che voleva avere pace sul suo letto di morte. Ma Jan invece non si era dato pace. Non riusciva a smettere di pensare a Linnart Björnsson, che se ne stava lassù nel bosco e non sapeva nulla. E alla fine si era deciso lui, Jan, ad agire contro il desiderio del vecchio Björn e ad andare a portare la notizia al figlio. E fino a quel momento non aveva saputo più nulla di come fosse andata a finire. E fu talmente preso dal desiderio di ascoltare quel che ricevono le due donne che si dimenticò completamente di pensare sia alla prima che alla seconda tavolata. Sì, quando il figlio era arrivato a casa, non vi fu che tenerezza tra lui e il padre. Il vecchio si era messo a ridere guardando i suoi vestiti. «Vieni vestito da lavoro», aveva detto. «Già, avrei dovuto cambiarmi, visto che è domenica», aveva risposto Linnart Björnsson. «Ma vedete, c'è stata una tale abbondanza di pioggia su da noi quest'estate, che avevo pensato di portare dentro un po' d'avena nel pomeriggio, anche se è domenica». «Beh, e hai fatto in tempo a mettere al riparo qualcosa?» chiese il vecchio. «Ho fatto in tempo a fare un carico, ma l'ho lasciato nel campo quando è arrivata la notizia. Mi sono subito messo in cammino, senza stare a cambiarmi». «Chi è che è venuto a portarti la notizia?» chiese il padre dopo un po'. «Era un uomo che non avevo mai visto», rispose il figlio. «Non ho pensato a chiedergli chi fosse. Aveva più che altro l'aria di un piccolo mendicante. Devi trovare quell'uomo e ringraziarlo da parte mia», disse il vecchio Björn con molta enfasi. «Lo devi onorare, dovunque lo incontri. Ha dimostrato di volerci bene». E questa serenità e questa armonia era continuata tra loro fino alla fine. Erano così felici della riconciliazione che era come se la morte avesse portato loro gioia invece di dolore. Jan era sobbalzato di disappunto a sentire che Linnart Björnsson l'aveva qualificato come un mendicante. Ma capiva bene che era una conseguenza del non aver portato con sé né il berretto né il bastone da imperatore, lassù, in quella regione disabitata. Questo riportò i suoi pensieri alla preoccupazione del momento. Certo, ormai aveva atteso abbastanza. Avrebbe già dovuto essere chiamato, a meno che non fosse troppo tardi. Il che era decisamente inammissibile. Si alzò. Attraversò risoluto la stanza e il vestibolo, salì le scale e aprì la porta del salone del piano superiore. Vide subito che il pranzo era già in pieno svolgimento. La grande tavola a ferro di cavallo era al completo e la prima portata era già servita. Non l'avevano voluto tra i più insigni. C'era il pastore, c'era il sacrestano, c'era il tenente di Lobdala con la sua signora, c'erano tutti quelli che dovevano esserci tranne lui. Una delle giovinette che servivano il cibo si affrettò verso Jan non appena ebbe varcato la porta. «Che cosa venite a fare qui, Jan?» disse a bassa voce. «Tornate giù subito!» «Ma, mia cara signorina!» rispose Jan. «L'imperatore Johannes di Portugallia deve ben prender parte al primo turno!» «Su, zitto ora, Jan!» disse la ragazza. «Oggi non è il giorno adatto a venir qui con le vostre sciocchezze. Andate giù ora, avrete da mangiare quando verrà il vostro turno!» Il fatto è che Jan provava più rispetto per questa casa che per qualsiasi altra casa di tutto il comune. E proprio per questo avrebbe attribuito tanto valore ad essere ricevuto come si addiceva al suo rango. Uno strano sconforto si abbatté su di lui, mentre se ne stava lì sulla porta col berretto in mano. Aveva l'impressione che tutta la sua dignità imperiale gli cadesse a un tratto di dosso. Ma nel bel mezzo di questa penosa situazione udì Linnart Björnsson, laggiù a tavola, lanciare un'esclamazione. «Ma quello è l'uomo che è venuto da me domenica scorsa con la notizia che papà era ammalato!» «Ma che dici?» chiese sua madre. «Ne sei proprio sicuro?» «Sì, certo, non può che essere lui. L'avevo già visto oggi, ma era conciato così bizzarramente che non l'ho riconosciuto. Adesso però lo vedo bene che è lui.» «Se è lui, non deve stare lì sulla porta come un mendicante», disse la vecchia padrona. «Bisogna fargli posto qui, a tavola. Gli dobbiamo onori e ringraziamenti, perché è stato lui che ha reso più leggera la morte al vecchio Björn, e a me ha procurato l'unico conforto che poteva attenuare il dolore per la perdita di un uomo simile.» E gli fu fatto posto, nonostante si stesse già abbastanza stretti. Jan fu sistemato all'interno del ferro di cavallo, al centro, di fronte al pastore. Meglio di così non poteva andare. All'inizio Jan era un po' sconcertato, non riuscendo a capire come mai facessero un tal chiasso, soltanto perché aveva corso qualche miglio attraverso il bosco con l'ambasciata per Linnart Björnsson, ma poi intuì come stavano le cose. Era naturalmente l'imperatore che volevano onorare ad ogni modo. Probabilmente si comportavano così affinché nessuno si sentisse retrocesso. Non poteva proprio esserci altra spiegazione, perché gentile e modesto e compiacente lo era stato tutta la sua vita, senza che nessuno si fosse mai sognato per questo di onorarlo e festeggiarlo. Il rifiuto di Jan. Ogni volta che l'ingegner Borus di Borg faceva le sue brevi passeggiate giornaliere giù al pontile, non poteva fare a meno di notare l'assembramento che si formava sempre intorno al vecchietto di Skrolika. Ormai non doveva più starsene tutto solo a scacciar la noia con i suoi sogni silenziosi, come l'estate precedente. Al contrario, tutti quelli che attendevano il battello gli si avvicinavano per sentirlo descrivere quel che sarebbe avvenuto al ritorno dell'imperatrice, ed in particolare al momento dello sbarco sul pontile di Borg. Ed ogni volta che l'ingegnere Burris passava di lì, sentiva parlare del diadema d'oro che l'imperatrice avrebbe portato sui capelli e dei fiori d'oro che sarebbero apparsi su alberi e cespugli non appena il suo piede avesse toccato la terraferma. A ottobre avanzato, circa 3 mesi dopo quel giorno in cui Jan di Skrolika, proprio sul pontile di Borg, aveva per la prima volta rivelato quanto era salita in alto Clara Gulla, l'ingegnere, una mattina, notò che la folla di persone radunata intorno a lui era ancora più folta del solito. L'ingegnere aveva l'intenzione di passare oltre, con un breve saluto, come sempre, ma cambiò idea e si fermò per informarsi di quel che era successo. A un primo sguardo non si vedeva nulla di particolare. Jan era seduto, come d'abitudine, sulle pietre dell'attesa e aveva un'aria molto dignitosa e solenne. Accanto a lui aveva preso posto un'altra donna, che parlava così in fretta e con tale fervore che le parole quasi le sprezzavano dalla bocca. Scuoteva la testa, strizzava gli occhi e si chinava lentamente in avanti fino ad avere la faccia quasi a terra quando finiva di parlare. L'ingegner Burris riconobbe subito, naturalmente, Ingborg la scema, ma all'inizio non riusciva proprio a sentire quel che diceva. dovette domandare a uno degli astanti di che cosa si trattasse. Lo prega di fare in modo che le sia concesso di seguire l'imperatrice quando farà ritorno in Portugallia, gli fu spiegato. È già da un bel po' che glielo chiede, ma Jan non vuol fare promesse. A quel punto l'ingegnere non ebbe più difficoltà a seguire il colloquio, ma non si rallegrò di quello che udì. La ruga tra le sopracciglia si faceva più profonda e arrossata mentre ascoltava. Lì c'era l'unica persona al mondo che credesse alla magnificenza della Portugallia oltre a Jan stesso, e le veniva negato di recarvisi. La povera vecchia sapeva che in quella terra non c'erano né fame né povertà, né uomini crudeli che si burlassero di un infelice, né bambini che seguono lungo le strade i viandanti soli e indifesi lanciando sassi contro di loro. Là regnavano la pace perpetua e la serenità, e là voleva essere condotta lontano dalla miseria di tutta la sua povera vita. Piangeva e supplicava e faceva ricorso a tutta la sua capacità di persuasione, ma riceveva in risposta soltanto no e no. E chi si mostrava così sordo a tutte le sue preghiere era uno che aveva passato tutto quell'anno nella nostalgia e nel dolore. Forse non avrebbe detto di no qualche mese prima, quando il suo cuore era ancora in vita, ma ora, nel momento della fortuna, sembrava che il suo cuore fosse diventato di pietra. Persino il suo aspetto rivelava che un grande cambiamento si era operato in lui. Le sue guance erano piene, aveva il doppio mento e folti baffi gli incorniciavano il labbro superiore. Gli occhi erano un po' sporgenti dalle orbite e lo sguardo si era fatto fisso e vuoto. Sì, l'ingegnere si domandava addirittura se il naso non fosse cresciuto, assumendo una forma più grande e più nobile. I capelli si sarebbe detto che fossero completamente caduti, non uno spuntava fuori dal berretto di cuoio. L'ingegnere non l'aveva perso d'occhio da quel loro primo colloquio l'estate precedente. Non era più ormai lo struggimento e la nostalgia a spingere Jan al pontile. Rivolgeva a stento uno sguardo verso il battello. Andava lì soltanto con l'idea di incontrare gente che secondava la sua pazzia, che lo chiamava imperatore per sentirlo cantare e raccontare le sue fantasie. Ma perché aversene a male? Quell'uomo era pazzo. Ma non si sarebbe forse potuto evitare che la pazzia si radicasse così a fondo, come invece era accaduto? L'ingegnere riflette che se da subito lo si fosse strappato con violenza e senza pietà dal suo trono imperiale, forse lo si sarebbe salvato. L'ingegnere gettò ancora uno sguardo indagatore su Jan di Skrojka. Del suo rifiuto si degnava di mostrarsi addolorato, ma restava ugualmente inflessibile. Nel magnifico paese di Portogallia non dovevano esserci naturalmente che principi, generali e tutta gente superbamente vestita. Era così, e Ingeborg la scema avrebbe fatto una ben misera figura lì con la sua veste di cotonina e la sua giacchetta a maglia fatta in casa. Ma signori Dio! L'ingegnere trovava proprio che, per un attimo sembrò volesse egli stesso dare una lezione a Jan, una lezione di cui aveva bisogno, ma poi scrollò le spalle. Non era la persona adatta, avrebbe rischiato di fare un male peggiore. Si allontanò in silenzio dalla folla e scese giù, al pontile, proprio nel momento in cui il battello spuntava dal promontorio più vicino. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia, di Selma Lagerlöf. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it